entra a gamba tesa al programma Letture. Andiamo avanti in questo pomeriggio. Radio ZM si colora di programmi, si colora di intrattenimento. That's Amore. Noi non amiamo San Valentino, anzi lo boicottiamo perché siamo romantici tutto l'anno. Ci piace pensarla così. Intanto losche figure si introducono. Io vi comunico già che iniziamo ora, quindi ci prenderemo un'ora. Ciao, buonasera, quindi slitterà tutto di un pochino, ma questo è il bello della diretta. Ci fanno ok che è tutto bene la regia, avevo già paura che mi iniziassero a picchiare malissimo. È già, esatto. E non è Zona Rossa, quindi attenzione, è il programma Letture. Il programma Letture è composto da persone che leggono. E in questo caso io mi sono sentito di invitare persone che ho la presunzione possano pensare a dei programmi radiofonici, perché è questo che stiamo facendo tutto il pomeriggio, invitare gente. Non a caso sono arrivate tre losche figure che mi interessano particolarmente. Ora le presentiamo una ad una. Iniziamo a presentare quella che è al microfono in questo momento, che è Mattia. Buongiorno, buonasera. Più vicino, Mattia. più vicino. Molto più vicino. Così, Intimamente più vicino. Intimamente vicino. Ancora un po' più intimamente. Vuoi che limono col Perfetto. Microfono? La difficoltà è che non riuscirei a guardarmi, quindi mi metto qua così ti facilito. Guarda, facciamo così. Esatto. Fissiamoci. Ti consiglio anche di inserire le cuffie. Hai ragione. Così puoi mirare la tua grandissima voce. Mamma mia, adesso ti sento proprio... Vero? Sei molto più sexy in cuffia che da fuori, lo sai. Te Ancora detto. Di più. Sì, estremamente. È assurdo. Estremamente. Andiamo avanti, a posto di pensare a noi che siamo... Io che sono principalmente una brutta persona, mi vengono date cose perché intanto qua si fa anche regia, grazie gioia. E Mattia, io mi arrivano voci che tu hai già adoperato il mezzo radiofonico, comunque non ti è nuovo. No, non mi è nuovo, lo adopero settimanalmente, cioè adoperiamo. Io faccio un programma di musica, si chiama Salad Days, ed è una sorta di rassegna della musica che non passerà mai sulle radio un po' più mainstream, e quindi noi facciamo così. Cerchiamo la musica che ci piace e la diffondiamo come possiamo, come meglio ci viene. E ci sono anche dei reading. E ci sono anche dei reading, sì, abbiamo anche questo format che si chiama Night Reading, che è pensato un po' per essere l'ultima lettura notturna, diciamo, prima di addormentarsi. Certo. In cui chiunque è aperto a tutti può decidere di leggere 5-6 pagine di un libro a piacere. Cosa che questo programma fa molto, molto similmente, solo che la mattina. Infatti siamo anime gemelle. Vero, vero, gemelli diversi. Trovarsi qui a San Valentino. Esatto, esatto. Quindi, allora, prima di tutto possiamo anche passare subito un attimo la parola a un altro invitato che assolutamente. È qui, vieni. Sui divanetti dei nostri 220 metri quadri di radio. Come sapete noi teniamo le distanze, quindi lo sto mirando molto lontanamente. Passo delle cuffie. Prego. Ciao, aspetta che mi tolgo anche questo. Perché lei è stato invitato qua? Ci dica. Mi dai del lei? Ah, do tutti del lei, anche lui ha dato del lei. Ok, sì, non sì, ho sì. sentito, pensavo di pensavo fosse una cosa. Ok, sono qua perché anch'io ho fatto web radio e anche con questo losco figuro. Come si chiama? Come ti chiama? Un nome bellissimo, tipo quello di mio padre. Esatto, Giancarlo. Oh, ciao Lorenzo. Anzi, ciao. Ciao a tutti. Ho fatto sì web radio, Radio Pane e Salame, che alcuni l'hanno già sentita, e poi ho incontrato Mattia e ci siamo messi a fare un programma che era nato su Radio Pane e Salame, su Radio Web Arese, l'avevi citata? Non l'avevo citata, comunque Radio Web Arese. Il programma si chiama, perché noi contiamo di proseguire da qualche parte, si chiama Puoi Dirlo a Tutti. Ok. E parla di un po' di cose, insomma. Bene, ma molto siamo bene. Qua per leggere. Siamo qua per leggere, esatto, esatto. C'è un altro losco figuro che si aggira dietro i 220 metri quadri di Radio ZM che, che si prende un microfono tutto per sé e fa benissimo. Giancarlo, puoi stare anche seduto, sì, anche Mattia magari si mette più di fianco. So che è molto spaziosa questa radio per le distanze, però no, ce la facciamo. Reggono, i tavoli reggono e sono testati. Chi l'avrebbe detto? E buongiorno a tutti. Mi fa un'impressione, ho i brividi a tenere questo microfono in mano dopo tantissimo tempo. E mi presento. Devi. Mi chiamo Davide. E dalle ceneri di Radio dei Navigli sono tornato in uno studio radiofonico dopo anni e anni. Quindi abbiamo un sacco di mondi che si vogliono incontrare in questa oretta scarsa che ci rimane. E potremmo iniziare a rilassarci magari mettendo un po' di musica che io ho selezionato sapientemente. Non è vero, l'ho fatto in un quarto d'ora ieri durante una pausa lavorativa. Però ci sono delle chicche. Ci sono delle chicche che io vorrei far ascoltare magari per poco a microfoni spenti, oppure che possiamo poi mettere anche come tappeto musicale per le letture. Quindi improvviseremo totalmente. Io magari posso... Karaoke lo facciamo adesso. Se vuoi tenere i microfoni accesi. Questa qua magari non so se la conosci. Te la metto anche nelle casse. Però il problema è che se la mettiamo nelle casse e poi rientra tutto, succede un casino. Quindi iniziamo a salutarci. Esatto, il programma Letture va avanti. Ci sentiamo fra pochissimo. Questi sono i Tre Allegri Ragazzi Morti con La Sindrome di Banks, tutta per voi. prima fila a vedere un concerto di quello che è l'ultimo re. Il re di una musica morta è quello che ho visto ed è. Isterico con stile e praticamente una rock and roll star, il più intelligente del bar, se lo tiri fuori, praticamente il più vandalo. Isterico con stile e praticamente una rock and roll star, lo sguardo rovescio sul mondo che da troppo tempo l'ha perso di vista. Sul palco capisco che è bravo, a terra il poeta che è. Sul palco capisco che è Dio, a terra il poeta che è. Isterico con stile, praticamente una rock and roll star, il più funzionale al disegno di un Dio che non vuole responsabilità. Disintegrato con stile, praticamente una rock and roll star, più debole di ogni sostanza, cinico di ogni speranza. Hai 500 battute, vai, ti registro. Alla fine l'evento principale del festival, luci bassissime, concerto incredibilmente intenso, alterna momenti di apparente quiete a momenti di delirio. E lui è ipnotizzato dalla sua stessa chitarra e intorno i rumori selvaggi, i tamburi del suo batterista. Io in uno stato di semi-incoscienza, praticamente stordito, come succede solo ai grandissimi concerti. Non sono capace di scrivere perché è più grande di me. Non capisco perché perdete tempo a leggere questa recensione scritta con i piedi. Andate dritti nel loro sito e scaricate gratis il loro ultimo LP. Fatto. Fanatico con stile, praticamente una rock and roll star, il mistero più grande è dove ha trovato le scarpe che lo tengono su. Addolicato con stile, sicuramente una rock and roll star, posso scrivere senza rimpianti che in giro comunque di meglio non c'è. Autogestito con stile, sicuramente una rock and roll star. Pezzone che io sto riascoltando molto volentieri in questo periodo, anche il disco ve lo consiglio, e ci addentriamo perché ci rimane pochissimo tempo. Io faccio una pausa da quella che è la lettura di William Burroughs e Le città della notte rossa, perché settimana scorsa è uscito un libro molto, molto interessante che ringrazio la libreria Verso per aver fatto una storia Instagram che ho visto e quindi sono riuscito a sapere di questo libro. L'autore è Don DeLillo, io l'ho conosciuto grazie a Underworld e Cosmopolis è anche un film di David Cronenberg, preso appunto dal libro di Don DeLillo. In questo caso abbiamo davanti a noi, edito da Einaudi, Il silenzio. Molto interessante, in realtà è un libro molto corto, io me lo aspettavo più lungo, in realtà penso che sia una sorta di racconto. Ed è ambientato nel 2022, è ambientato un anno dopo la pandemia, e c'è una coppia che torna da un viaggio, alla fine dell'atterraggio dell'aereo, in quel momento lì si spengono tutti i dispositivi tecnologici, tutti gli schermi, i monitor, i display, tutto intorno diventa nero. E da qui comincia il libro. Quindi io mi accingo a leggere la prima parte, leggo qualche pagina e poi lascio la parola ai miei compagni per altre letture. In sottofondo c'è Nicolas Jaar con un album che è uscito quest'anno, molto carino, che si chiama Telas, che vi consiglio. Adesso lo lascio in sottofondo perché è molto interessante. Capitolo 1. Parole, frasi, numeri, distanza, destinazione. L'uomo sfiorò il pulsante, modificando la posizione verticale del sedile. Si ritrovò con gli occhi fissi sul più vicino dei piccoli schermi posizionati in alto, appena sotto la cappelliera. Parole e numeri che cambiavano di continuo con il procedere del volo. Altitudine, temperatura esterna, velocità, ora di arrivo. Aveva sonno, ma continuava a guardare. «Guarda», disse, e la donna annuì appena, continuando a scrivere su un quadernino azzurro. L'uomo prese a snocciolare le parole e i numeri ad alta voce, perché altrimenti qual era il senso? A che pro limitarsi a osservare quei dettagli che cambiavano sempre per poi perdersi nei ronzii gemelli della sua mente e dell'aereo? «Ok, altitudine 33.200 piedi». «Oh, quanta precisione», disse. «Temperatura meno 58 gradi». Si interruppe e aspettò che la donna dicesse Celsius. Ma la donna, che guardava il quaderno poggiato sul tavolo estraibile davanti a sé, si fermò a pensare per qualche istante e poi riprese a scrivere. «Ok, ora di New York 12:55. Non è specificato se AM o PM, ma direi che non ce n'è bisogno. L'importante era dormire». Aveva bisogno di dormire, ma il flusso di parole e numeri era incessante. Ora di arrivo 16:32, velocità 54,7 un miglio all'ora, tempo di viaggio restante 3 ore e 34 minuti. «Sto ripensando a quello che ci hanno dato da mangiare», disse lei, «e allo champagne con il succo di mirtilli, che però tu non hai preso. Mi sembrava un po' troppo pretenzioso, invece non vedo l'ora di assaggiare l'altro piatto che c'è lì». Parlava e scriveva contemporaneamente. «Ci tengo a pronunciare la parola in modo corretto», disse, «con la O breve. Oppure è un suono lungo». Lui la osservava scrivere. Cos'è che stava scrivendo? Quello che lei stessa diceva? Le cose che si dicevano? Lei disse, «Celsius, C maiuscola». Era un cognome. Il nome non me lo ricordavo. «Ok, e Vitesse? Che cosa significa Vitesse?» «Sto pensando a Celsius e ai suoi studi sulla misurazione in gradi centigradi». «E poi c'è Fahrenheit». «Sì, c'è anche lui». «Ma che significa Vitesse?» «Cosa?» «Vitesse, Vitesse». «Velocità», rispose lei. «Vitesse, 748 km all'ora». L'uomo si chiamava Jim Cripps, ma per tutte le ore del volo il suo nome coincideva con il numero del posto a sedere. Questa era la prassi consolidata, la sua prassi personale, in conformità con il numero scritto sulla carta d'imbarco. «Era svedese», disse lei. «Chi?» «Il signor Celsius. Non avrà mica dato una sbirciatina di nascosto sul cellulare?» «Sai come vanno queste cose. Riemergono dalle profondità della memoria. Quando ti verrà anche il nome comincerò a sentirmi sotto pressione». «Sotto pressione per cosa?» «Perché a quel punto a me toccherà farmi venire in mente il nome del signor Fahrenheit». Lei disse. «Torna a guardare il tuo schermo ad alta quota. Questo volo, tutti questi voli a lunga percorrenza, tutte queste ore, qualcosa va oltre la noia. Accenditi il tablet, guardate un film. Mi va di parlare, niente cuffie. A tutti e due va di parlare. Niente auricolari», disse lei. «Parla e scrivi». Lei disse. Tessa Behrens era la moglie di Jim. Pelle scura, un misto di ascendenze caraibiche, europee e asiatiche. Autrice di poesie che spesso venivano pubblicate su riviste letterarie. Inoltre, parte del suo tempo lo dedicava a curare i contenuti per un sito di consulenza che rispondeva agli abbonati su questioni che spaziavano dalla perdita dell'udito all'equilibrio corporeo passando per la demenza. Lì, in aria, gran parte di ciò che loro due si dicevano sembrava la finzione di qualche processo automatizzato, osservazioni generate dalla natura stessa del volo di linea. Niente chiacchiere a ruota libera, come succede alle persone che si trovano nella medesima stanza o al ristorante, luoghi dove il moto è in gran parte frenato dalla forza di gravità e le conversazioni tendono a fluttuare liberamente. Ore e ore passate a sorvolare oceani o sterminate distese continentali, frasi concise, racchiuse in se stesse. In un certo senso, passeggeri, piloti, hostess e steward. Ogni parola cancellata dalla memoria nell'istante in cui l'aereo tocca la pista d'atterraggio e comincia a rullare per un tempo infinito alla volta del primo manicotto di imbarco disponibile. Solo lui, pensò, ne avrebbe conservato qualche frammento che gli sarebbe riaffiorato la memoria nel cuore della notte, a letto. Immagini di persone addormentate, avvolte nelle coperte della compagnia aerea, simili a cadaveri. L'alta hostess che gli chiedeva se volesse dell'altro vino, la fine del volo, il segnale delle cinture di sicurezza che si spegnevano, il senso di sollievo, i passeggeri in piedi nei corridoi, in attesa. Gli assistenti di volo all'uscita, tutti che ringraziavano e facevano cenni di saluto con la testa, i sorrisi da mille miglia. Scegliete un film, guardatelo. Ho troppo sonno. Distanza destinazione 1654 miglia. Ora a Londra 18:04. Velocità 465 miglia all'ora. Leggo tutto quello che compare sullo schermo. Durée du vol 3 ore e 45 minuti. Lei chiese: a che ora è la partita? Inizia alle 6:30. Facciamo in tempo ad arrivare? Non l'avevamo già letto sullo schermo. Ora di arrivo, bla bla bla. Atterriamo a Newark e non dimenticarlo. La partita. In un'altra vita forse le sarebbe interessato qualcosa, il volo. Avrebbe voluto trovarsi già a destinazione senza questo intermezzo. C'è qualcuno a cui piacciono i voli lunghi. Evidentemente questo qualcuno non era lei. Velocità 467 miglia all'ora. Abbiamo appena preso 2 miglia all'ora. Ok, ora ti dico quello che sto scrivendo. Semplice, alcune cose che abbiamo visto. In che lingua? Inglese elementare, da filastrocca per bambini. Ma se abbiamo opuscoli, libretti, interi volumi, ho bisogno di vederlo scritto con la mia grafia, magari tra 20 anni, ammesso che sarà ancora viva, e trovare un elemento mancante, qualcosa che adesso mi sfugge, ammesso che saremo tutti ancora vivi, tra 20 o 10 anni. È per riempire il tempo, anche questo. Per riempire il tempo, per fare qualcosa di noioso, vivere la vita. Ok, disse lui. Mi sto sforzando di pronunciare il più correttamente possibile questo francese elementare che leggo. Distanza, destinazione 1568 miglia. Avremmo dovuto contattare il servizio di autonoleggio. Possiamo tranquillamente prendere un taxi all'arrivo. Tutte queste persone, un volo come questo, avranno macchine che l'aspettano, una ressa in mano all'uscita, sanno tutti benissimo dove andare. Hanno imbarcato i bagagli, molti di loro, alcuni, noi no. Siamo in vantaggio. Ora a Londra, 18:11. Ora di arrivo 16:32, la stessa dell'ultima volta. Rassicurante, direi. Ora a Parigi 19:11, altitudine 33.003 piedi. Pronunciare le parole e i numeri, parlare, entrare nel dettaglio, significava permettere a quegli indicatori di vivere per un po', di essere ufficialmente o volontariamente osservati. La lettura udibile, pensò lui, del dove e del quando. Lei disse: chiudi gli occhi. Ok, velocità 466 miglia all'ora, tempo di arrivo stimato. Aveva ragione lei, meglio non imbarcare i bagagli, ci conviene ficcarli nella cappelliera. Guardò lo schermo e pensò alla partita, un pensiero fugace, non riusciva a ricordare chi fossero gli avversari dei Titans. Ora di arrivo 16:30. Gli piaceva l'idea dei due piedi, una cosa decisamente degna di nota, temperatura esterna meno 53 gradi. I Seawalks, ma certo. Crips era un tipico cognome da persona alta, e lui era alto, sì, ma con discrezione, e assecondava il suo bisogno di essere ordinario. Non era una di quelle figure la cui testa svetta, fiera, al di sopra della folla, ma una sagoma curva che si bea del proprio anonimato. Ripensò alle procedure di imbarco, tutti i passeggeri finalmente seduti, la cena che stava per arrivare, la sanzione umida e calda, delle viette, delle mani, lo spazzolino, il dentifricio, i calzini, la bottiglia d'acqua e il cuscino abbinato alla coperta. Si vergognava forse un po' all'idea di tutti quei comfort. Eccoci, siamo tornati dopo questa bellissima lettura di Lorenzo di Tondelillo. Si è sentito che ho detto se ci tiri in mezzo? Sì. Spero di sì. Anch'io. Spero di sì. Io ti sto tirando in mezzo subito. Esatto. Allora, è il momento della mia lettura. E, essendo San Valentino, io ho parlato un testo che parla della fotosintesi clorofilliana. No, scherzo. Parla di matrimonio. Si chiama proprio Matrimonio, ed è una delle poesie di Gregori Corso che mi è rimasta nel cuoricino. E, che dire, hai altro? Vuoi inserirmi? Buona lettura. Vuoi introdurmi? No, Gregori Corso ha già calcato è già stato presente in piccola parte, sì, in piccola parte, perché abbiamo mandato molti mesi fa dei podcast già editati, casalinghi, di 20 diversi, di tempi diversi, che è il nostro collettivo di poesia, in cui il nostro compagno Francesco Carlucci ha letto Gregori Corso e poi è già riecheggiato, perché la beat è ripassata di qua diverse volte, sì. E la facciamo riecheggiare. E la facciamo riecheggiare. Facciamo riecheggiare. Matrimonio. Devo sposarmi? Devo essere buono? Far colpo vestito di velluto e cappuccio da Faust sulla ragazza che abita accanto? Portarla al cimitero invece che al cinema? Dirle tutto su lupi mannari, vasche da bagno, clarinetti biforcuti? Poi desiderarla e baciarla e tutti i preliminari, e lei che arriva solo fino a un certo punto, e io capisco perché. E non mi arrabbio dicendo, devi sentire, è bello sentire. Invece la prendo tra le braccia, mi appoggio a una vecchia tomba contorta e corteggio lei. La notte intera, le costellazioni nel cielo. Quando mi presenta i suoi genitori, schiena ritta, capelli finalmente ravviati, strangolato da una cravatta. Devo sedere a ginocchia unite sul loro sofà da terzo grado e non domandare, dov'è il bagno? Come sentirmi se non come sono? Pensando spesso al sapone Flash Gordon, o come deve essere orribile per un giovanotto seduto davanti a una famiglia, e la famiglia che pensa, non l'abbiamo mai visto, vuole la nostra Mary Lou. Dopo il tè e i dolci fatti in casa mi chiedono, come ti guadagni la vita? Devo dirglielo? Gli sarei simpatico dopo? Direbbero, va bene, sposatevi, perdiamo una figlia, ma guadagniamo un figlio. E devo domandare, allora, dov'è il bagno? Dio e il matrimonio. Tutta la famiglia e i suoi amici e solo un pugno dei miei, tutti scrocconi e barbuti che aspettano soltanto cibi e bevande. E il prete mi guarda quasi mi masturbassi nel chiedermi, vuoi questa donna per tua legittima sposa? E io tremante che direi, tortacolla, bacio la sposa, tutti quegli arrapati giù, manate sulla schiena, è tutta tua ragazzo. E nei loro occhi si vede qualche oscena luna di miele in atto. Poi tutto quell'assurdo riso e lattine che sbattono e scarpe, cascate del Niagara, orde di noi, mariti, mogli, cioccolatini, tutti che affollano alberghi accoglienti, tutti a fare la stessa cosa stanotte. L'impiegato indifferente che sa cosa sta per succedere, gli idioti nella hall che lo sanno, il fattorino dell'ascensore che lo sta fischiettando. Il portiere ammiccante che lo sa, tutti lo sanno, mi viene quasi voglia di non fare niente. Stare alzato tutta la notte, fissare negli occhi quell'impiegato d'albergo gridando «Io nego la luna di miele! Io nego la luna di miele!» Correndo aggressivo in quegli appartamenti quasi eccitati, urlando «Pancia radio, zappa gatto!» Oh, vivrei a Niagara per sempre, in una buia caverna sotto le cascate. Mi siederei il pazzo lunatore di miele, a escogitar modi per rompere matrimoni, fustigatore di bigamia, santo del divorzio. Ma devo sposarmi, essere buono. Che bello sarebbe tornare a casa da lei e sedermi vicino al fuoco mentre lei in cucina, col grembiule, giovane e bella, vuole un mio figlio. È così felice per me da far bruciare il rosbif e viene a piangere da me e io mi alzo dalla grande sedia di padre e dico «Denti Natale, cervelli radiosi, mela sorda!» Dio, che marito sarei! Sì, devo sposarmi, tanto da fare. Per esempio, entrare in casa di Mr. Jones a tardanotte e coprirgli le mazze da golf di libri norvegesi 1920. O appendere una foto di Rimbaud alla falciatrice. O incollare francobolli di Tannu Tuva su tutto lo steccato di cinta. O quando viene la signora Kindred per la colletta del fondo della comunità, afferrarla e dire «Ci sono presagi sinistri nel cielo». E quando il sindaco viene a chiedermi il voto, dirgli «Quando li farei smettere di uccidere balene?» E quando viene il lattaio, lasciargli un appunto nella bottiglia. Polvere di pinguino. Portami polvere di pinguino. Voglio polvere di pinguino. Eppure, se dovessi sposarmi e fosse il Connecticut e la neve, e lei partorisse un bambino e io non potessi dormire, esausto, in piedi la notte, il capo su una muta finestra, il passato alle spalle, trovandomi tremante nella situazione più solita, consapevole di responsabilità, non rametto sporco né minestra di moneta romana. Oh, cosa sarebbe? Certo, Gli darei per capezzolo un tacito di gomma. Per sonaglio un sacco di dischi rotti di Bach. Attaccherei della Francesca intorno alla culla, cucirei l'alfabeto greco sul suo bavaglino. E per il suo passeggino costruirei un partenone senza tetto. No, non credo che sarei quel tipo di padre. Niente campagna, niente neve, niente muta finestra. Ma rovente, puzzolente, isterica New York City. 7 piani di scale, scarafaggi e topi sui muri. Una grassa moglie reichiana che strilla da sulle patate «Trovati un posto!» E 5 bambini mocciosi innamorati di Batman e i vicini sdentati e forforosi, come quelle masse stracciate del XVIII secolo, tutti che vogliono entrare e guardare la TV. Il padrone vuole l'affitto. Drogheria, gas, Blue Cross and Electric Knights of Columbus. Impossibile sdraiarsi a sognare neve del telefono. Parcheggio fantasma. No, non devo sposarmi, non devo sposarmi mai. Ma e se fossi sposato a una bella donna sofisticata, alta e pallida, in un vestito nero elegante e lunghi guanti neri con un bocchino in mano e un bicchiere nell'altra? Vivessimo in una penthouse con un'enorme finestra da cui vedere tutta New York e anche oltre nelle giornate serene? No, non riesco ad immaginarmi sposato a quel piacevole sogno prigione. Ma e l'amore? Dimentico l'amore. Non che sia capace di amore, solo che l'amore per me è strano come portare scarpe. Non ho mai voluto sposare una ragazza che somigliasse a mia madre, e Ingrid Bergman mi è sempre stata impossibile, e forse adesso c'è una ragazza, ma è già sposata, e non mi piacciono gli uomini, e ma ci deve essere qualcuno, perché se a 60 anni non sono sposato, tutto solo, in una camera ammobiliata, con macchie di piscio nelle mutande, e tutti gli altri sposati, tutto l'universo, sposato all'infuori di me. Eppure so bene che se ci fosse una donna possibile come io sono possibile, allora il matrimonio sarebbe possibile. Come lei nel suo solitario fasto esotico aspetta l'amante egiziano, così aspetto io, privo di 2000 anni e del bagno della vita. Nella traduzione di Fernanda Pivano, grazie. Ovviamente, ovviamente. Bella, vecchia questa, sessantenne. Questa sì, penso proprio di sì. Avanti un altro, non avanti c'è tempo per mettere altra avanti musica, quindi andiamo così a braccio, avanti un altro. Eccoci qua. E quindi? Siamo qua. San Valentino. Il sole splende e il fumo del tabacco divora l'aria nella stanza. E è un buon giorno per odiare un po' di più. Io ho portato da leggere questo libro che si intitola Superpunk Arcimondano, sottotitolo Confessioni scomode di un giovane disobbediente, di Camille de Toledo, un francese. Vi leggo brevemente la sinossi per un attimo provare a inquadrare di che cazzo si andrà a parlare. Sono un asmatico dell'anima. Intendo dire che l'epoca mi crea un problema respiratorio, e questo mi ha spinto molto presto a cercare nel caos dei miei anni 90 qualche spazio, 2 o 3 idee, solo per respirare. Non penso di essere il solo, anzi sono pronto a scommettere che questo io asfissiato non è altro che un noi, il noi di una generazione che ha plasmato la propria coscienza fra 2 date curiosamente simmetriche. Il 9-11 per il 9 novembre 1989 e l'11-9 per l'11 settembre 2001. La caduta di un muro e la caduta di 2 torri. Pum, patapum. 2 volte 9, 2 volte 11, 2 crolli, una coscienza. L'estratto che vi vado a leggere è un tentativo con cui l'autore tenta di ideare una nuova forma di romanticismo, ecco perché ho scelto di leggerlo proprio oggi. Un romanticismo a occhi aperti, lui lo chiama, che si contrappone, diciamo, a tutti gli altri romanticismi di comodo, mettiamola così. E insomma, abbiamo dovuto ricostruire una possibilità di esistere. Questa lotta ha preso la forma di una campagna di guerra, una guerra in cui il corpo e lo spirito si dibattono, turbinano, vacillano, senza sapere da chi e da dove cominciare. Non è facile lottare contro il riso, non è facile lottare contro il cinismo, contro l'abdicazione e la disperazione. Non è semplice rivendicare lo spessore del tempo e dello spazio quando tutto il proprio secolo cospira al flusso. Al contrario delle generazioni che ci hanno preceduti, noi non abbiamo teorizzato più di tanto. Abbiamo più agito per intuito, senza scuotere troppo quel bel caos di cui abbiamo imparato a fare la nostra libertà. Non ambivamo al potere. Tutto quello che volevamo era essere lasciati in pace. Ma ci è stato negato. E così spirito e corpo hanno cercato una strategia di rivolta per sfuggire alla reclusione e arginare l'influsso. E il tutto potrebbe essere riassunto come in un dramma composto da 4 atti. Atto primo. Ci siamo aperti una breccia nel mondo chiuso del destino finito, rivendicando un esterno provvisorio. Atto secondo. Esplode un verbo poetico, ricomparso come dal nulla per opporsi al verbo freddo degli ultimi uomini. Atto terzo. Attraverso la reincarnazione dei corpi e il mascheramento dei volti abbiamo cercato di scongiurare l'immagine di bloccare i flussi. Atto quarto. Abbiamo assistito alla nascita di una dialettica aperta, di una resistenza nomade, capace di ripristinare la volontà dell'uomo nella storia. E non ho paura di farvi spoiler, e quindi passo subito al senso dell'epilogo, che non è un happy ending. Nell'epilogo abbiamo come piantato un seme nel fango, e quale specie ne sboccerà nessuno può saperlo. Fuori dal teatro non è cambiato nulla. La maggioranza non ha visto niente, non ha sentito niente. Danno ragione a Flaubert. Tutto scorre, ma il cuore stupido dell'uomo, stupido, resta. Le maggioranze silenziose inneggiano ancora. Votano per dei porci che li disprezzano. La televisione li addormenta facendogli credere che vedere sia agire. Si stravaccano, si rammolliscono, si dimenticano. E i governi legittimati ormai solo dal silenzio delle maggioranze silenziose ultimano la loro grande svendita e gli imprenditori completano la propria opera carceraria integrando al loro progetto il vocabolario della giustizia sociale, dell'ambiente e della pietà perfino. E nella sala in cui si è recitato il dramma gli spettatori sono in fermento. Pur non avendo riportato l'economia al buon senso, gli attori hanno colpito al cuore lo spirito dei tempi. Basta con la rassegnazione e il riso scema. E il cinismo? Morto. Gli impresari che speculano sulla stupidità non possono ancora rendersene conto, eppure il cinismo è morto. O meglio, sta morendo. La sua stagione è finita. E così lentamente usciamo dalla sua era oscura. Lasciamo lo spirito delle fini, che ne era il fiore, ed entriamo, ancora un po' storditi, nell'era del candore per scelta, dell'innocenza con cognizione di causa. Addio dendismo, addio schizzati. Ora potremo proclamare senza scatenare le risa. Siamo dei romantici a occhi aperti. Che sapete, il romanticismo è una bestiola curiosa. Vi sguscia fra le dita ogni volta che tentate di afferrarla. Un colpo a destra, un colpo a sinistra, spunta sempre là dove non ve lo aspettate. E il romanticismo non è bianco come la neve. Secondo alcuni ha perfino le mani sporche di sangue. Facciamo un piccolo esercizio. Immaginate per un istante una coda all'ingresso di un tribunale. In fondo un procuratore incaricato dell'istruttoria. In coda però non ci sono persone in carne e ossa, ma le grandi parole, in nome delle quali si è ucciso. Ad esempio, nome? Comunismo. Funzione. proprietà comune dei mezzi di produzione, abolizione delle classi, numero di morti, oltre 10 milioni. Entri avanti il prossimo, nome, nazionalsocialismo, funzione, sterminio degli ebrei, affermazione della superiorità della razza ariana, numero di morti, oltre 10 milioni. Entri e avanti il prossimo. Nome, capitalismo, funzione, proprietà privata dei mezzi di produzione, accumulo del capitale, numero di morti. Il conteggio è ancora in corso, ma sicuramente abbiamo superato i 10 milioni. Va bene, lei aspetti lì, avanti il prossimo. Nome, romanticismo, funzione, letteraria, numero di morti, mai potuto stabilirlo. Che per quanto il romantico si sia aggiunto un compiaciuto ismo, l'accesso al museo delle ideologie macabre gli è sempre stato negato. Pur avendo avuto, è innegabile, la sua parte in tutte queste barbarie. Dietro ciascuna può essere intravista la sua ombra. Il romanticismo è quella passione dell'animo per la quale ci si dilania, ci si batte, si tortura, solo che non si risale mai fino all'animo. Ci si limita alla colpevolezza della mano che ha inferto i colpi, benché nessuno dubiti che sia servito all'esaltazione dei popoli europei. Nessuna obiezione al fatto che abbia smosso lingue in tutti i sensi, territori e sangue, al punto di trasformare la cultura in macchina da guerra. Il romanticismo è stato in un primo tempo poetico alla fine del XVIII secolo. Ha suonato la musica tumultuosa dei sentimenti contro la freddezza del secolo dei lumi e l'ordine delle ragioni. E fin qui niente di male, se non che nel 1789 le idee dei lumi si incarnano in una nazione, quella francese. La testa del re cade, i soldati dell'anno secondo, Bonaparte, poi Napoleone, si conquista e si saccheggia in nome della ragione, e allora in Germania si chiama in soccorso il romanticismo. Genio francese, genio tedesco, bisogna scegliere. Così si è potuto affermare che aveva preparato i nostri nazionalismi e tutte le loro vittime. Che dire poi dell'erismo rivoluzionario? Quel romanticismo ribelle, rosso, proletario, che nasce sulle ceneri della rivoluzione francese, si rafforza fino alla comune con gli scritti dei socialisti utopici, attraversa l'Europa fino alla Russia, gela e si rapprende, poi conquista la Cina, prima di risorgere, più esaltato di prima, in America Latina, Giappone, Italia, Francia, sotto il nome di estrema sinistra. Andiamo avanti, quindi è il turno di Giancarlo, che si può accingere... Prego. Vado? Sì, sì, quando vuoi. Tanto intanto Nicolas Jarre che ci delizia. Okay. Io adesso abbasso un po' il livello. Del mio precedente. Quale livello? Dove siamo arrivati? Lettore. Quindicesimo livello. Vabbè, alte alte. Da qualche anno mi occupo di Incipit per un motivo in particolare. Per cui ho portato un libro che si chiama Incipit, 2001 modi per iniziare un romanzo. L'inizio mi ha sempre un po' incuriosito di un romanzo, ci sono romanzi che iniziano abbastanza, devo mettermi il microfono, sì, abbastanza forti e ti danno già l'idea di quello che poi tu andrai a leggere. Questo libro è diviso in capitoli un po' strani, un po' per dare un senso ai vari incipiti, ai vari inizi, per cui essendo, ahimè, San Valentino, sono andato a vedere qualche incipit, sono brevi, non sarò lungo. Il capitolo che ho scelto è Amore a prima vista, il sentimento innanzitutto. Io direi di iniziare col primo incipit che lo conosco molto bene, è uno dei più amati anche dai lettori in base a varie classifiche e a vari altri sondaggi che ho fatto in questi anni riguardo gli incipit. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia, Lolita. La punta della lingua compie un breve viaggio di 3 passi sul palato per andare a bussare 3 volte contro i denti. Lolita. Questo era Vladimir Nabokov, ovviamente con Lolita. Non avevamo dubbi, forse questo. Proseguo. La bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi. Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria, sulla collina che degradava sulla città di Alba. Il cuore non gli batteva, anzi, sembrava latitante dentro il suo corpo. Beppe Fenoglio, una questione privata. Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione troppo seria. Italo Svevo, Senilità. Proseguo. Ma questo libro dove l'hai recuperato? Questo libro, tra l'altro, è una riedizione che è uscito anni fa. Per è enorme. Sì, e c'è un'introduzione di Eco sugli incipit, sull'importanza o non importanza che può avere l'inizio di un libro. Che figa. Perché ci sono certi incipit che hanno veramente, ti dà il più, diciamo, uno dei più amati è quello di Moby Dick, che dice chiamatemi Ismaele, punto. Anche sulla questione incipit, non si sa bene se l'incipit è proprio solo l'inizio fino al primo punto, il primo paragrafo, il primo capitolo. A me piace pensare che sia il primo punto. Okay. Questi che ho letti c'erano, quello di Lolita è un po' più, un po' oltre, perché si dovrebbe fermare fuoco, luce dei miei occhi, fuoco dei miei lombi. Però anche il fatto che lui scandisce la parola Lolita all'inizio, certo, molto, ti fa capire già di chi sta parlando, mm-hmm, e vuole andare a parlare in tutto il libro. In due righe, sì. E questa è la cosa che mi ha affascinato anche dagli incipiti, da queste prime righe di un libro. Vado a caso? Vai, vai. Apro gli occhi e non so dove sono o chi sono. Non è una novità, ho passato metà della mia vita senza saperlo. Andrea Gassi, Open. Tra l'altro sono libri che vanno la pena anche leggere, questi, certo, oltre l'inizio. Sempre a caso? Io sto proprio sfogliando. La regia ti suggerisce qualcosa. Oh, ecco, sì. Forse uno dei più indicati oggi. Tutte le storie sono storie d'amore. Eureka Street di Robert Wilson. Questo. E poi niente, volevo leggere l'ultimo incipit, poi ridò la parola ai piani alti. Uno spettro si aggira per l'Europa, è lo spettro del comunismo. C'è stato fatto un regalo bellissimo, perché Giancarlo fa delle grafiche fantastiche e ci è stato portato un originale Giancarlo Pasquali, quindi sì, certo, era incorniciato qua in radio al sicuro in alto. E che dire, siamo agli sgoccioli, in realtà un po' in anticipo, perché adesso ci esortano le ribelli a cominciare, però siamo nella parte più importante del momento letture del pomeriggio, che ovviamente riecheggia in quello che è l'evento pomeridiano della radio, quindi coinvolgere persone che noi abbiamo la spocchia di dire che sono interessate, poi magari ci dicono di no. In realtà fino adesso sono già nati 3 programmi oggi pomeriggio e vorrei che ne nascessero altri 2 per arrivare a un 5, quindi vi dico, questa è la radio, l'avete vista, vi piace, non vi piace, voi avete delle mezze idee di riprendere radio, diteci ai microfoni. Soddisfatti o rimborsati? Sì, no, dipende quanto ci offrono, Mattia. Cioè, noi siamo qui, insomma, siamo anche piuttosto facili. Da. Sì, quindi avevate in mente un format comunque. Sì, sì, ma quello che avevamo, diciamo, già diffuso nelle altre web radio. Ok. Vediamo un attimino anche di adattarlo. Certo, sì, certo. Sì, sì, sì, sì. Poi se vedete voi, se in presenza, se è registrato, perché ripetiamo anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici, la possibilità di registrare da casa e inviare il proprio programma come podcast ovviamente c'è una sezione dedicata anche a questo, come eventi diversi, appunto, è stata una cosa molto simile fatta in primavera dell'anno scorso, e quindi l'invito ovviamente rimane aperto, quando volete ci trovate qua. Presenza più bella. E ovviamente poi c'è l'osco figuro alla mia sinistra che in questo momento è entrato nel programma letture a sua insaputa, perché ha battezzato il programma, e quindi con l'invito di rivederti presto ai microfoni di questo programma per andare avanti con la lettura che stavi facendo poco fa. Sorride. Molto bene, io vi lascerei in compagnia di Nicolas Jarre, che va avanti. Le canzoni che sono state pensate per questo momento verranno mandate durante la notte nell'auto DJ. Buon pomeriggio a tutti e tutte, Radio ZM è sempre con voi. Ci scusiamo con Riccardo, perdonami, non siamo riusciti a beccare, ma in questo momento la Critical Mass è arrivata all'ultima tappa, che è Porta Romana. Salutiamo tutti e tutte biciclettati, ci sentiamo fra pochissimo.